Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Mi piacerebbe iniziare questo appuntamento del soundcheck un po' come fa Jimmy Fallon col Tonight Show. Welcome, welcome, welcome, ladies and gentlemen, to the soundcheck. This is it. Eccoli qui, Francesco Tromba e Silvia Barba. Buonasera, ben ritrovati. Buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Buonasera. Francesco, che c'è? Sei sottotono? No, non sono sottotono. No, perché sto per sparare oggi della musica al top di gamma, come dice mio nipote. Ho sentito un paio di cose niente interessanti. Infatti parleremo pochissimo, perché a volte non c'è neanche bisogno di presentarla certa musica, perché oggi parliamo veramente di grandissima musica, e vorrei dare il via al soundcheck di questa domenica con due produzioni italiane, ovvero artisti italiani. E vorrei presentare agli appassionati di jazz uno dei migliori contrabbassisti italiani, un carissimo amico, anche eccellente direttore artistico di un bellissimo festival di jazz che si tiene alla Igueglia ormai da diverso tempo, e quindi vi sto parlando del formidabile Rosario Bonaccorso. Avete mai visto Rosario dal vivo? Molte volte. Molte, molto bene. Tromba, anch'io tu sei... Io l'avevo visto nel precedente lavoro viaggiando. Con Rosario abbiamo sempre incontrato musicisti bravissimi della nuova generazione, e quindi lui, per non smentirsi anche in questo nuovo album che viene prodotto da Via Veneto con Giando Music, quindi Gian Domenico Ciaramella, avvocato romano che continua a sperperare tutti i suoi soldi fortunatamente nel jazz di qualità, lo fa, abbiamo un nuovo album di Rosario Bonaccorso intitolato Beautiful Story, e questa è veramente una bella storia, perché l'album è molto piacevole, molto ben suonato, e vengono proprio in evidenza ancora una volta i talenti di musicisti della nuova generazione come Alessandro Paternesi alla batteria, Enrico Zanisi al pianoforte. Quanto è bravo Enrico? Molto bravo, bravo. Bravissimo. E poi Dino Rubino alla tromba, che nasce pianista per poi invece convertirsi a uno strumento che, insomma, in Italia sta dicendo la sua. Ormai c'è anche una bella tradizione su questo strumento. A partire, guarda, da Oscar Valdambrini, la famiglia Piana, con Dino Piana e suo figlio, fino ad arrivare a Flavio Boltro, Paolo Fresu, Enrico Rava naturalmente, e il nostro amico Fabrizio Bosso. E quindi c'è anche Dino Rubino, ma ce ne sono altri. Ce ne sono altri anche giovani. Francesco Lento, come Alessandro, no? Presti, no, ma bravissimi. Bene, andiamo ad ascoltare This Is For You, Rosario Bonaccorso, al soundcheck di Radio 24. E ve l'avevo detto, non male, This Is For You dal nuovo album di Rosario Bonaccorso, da non perdere questa pubblicazione per Giando Music e Via Veneto Jazz. Sì, diamo il via al soundcheck di oggi con sonorità italiche, ovvero sonorità internazionali, perché sono musicisti accreditati in tutto il mondo, come quest'altra accoppiata. Dio li fa e poi li accoppia, e qui si sono accoppiati un umbro e un brasileiro, ovvero Roberto Taufik, eccellente chitarrista ma residente del nostro paese da tanti anni, e il bravissimo Gabriele Mirabassi. Quindi il suono della chitarra e del clarinetto insieme fanno scopa, in questo caso, mio caro Francesco, un disco bellissimo, anzi ne hanno fatti già diversi insieme. Tra l'altro, da pochissimo è stato pubblicato questo album che si intitola Correntesa, con la partecipazione anche della vocalist Cristina Renzetti, album che vi segnalo. Ma Silvia Barba mi ha richiesto di ascoltare una composizione intitolata Arrivederci e grazie, da Un Brasil Differenci. Perché? Mi piace moltissimo, un brano di Gabriele Mirabassi contenuto appunto in questo album Un Brasil Differenci. Mi piace perché sembra la colonna sonora di un film, quindi si spazia, si può, con queste sonorità si può fantasticare. Mi piace. E certo, per una che fa anche la producer cinematografica. Io ho anche la doppia, no? La doppia valenza. Certo, la doppia identità. La bipolarità, direi. Andiamo, tromba? Andiamo. Andiamo. Soundcheck, il suono della musica che musicista, che classe, che suono, qualsiasi strumento prenda fra le mani, poi verrà sempre fuori il suono inimitabile di John Scofield, così come i grandi chitarristi e i grandi musicisti, anche Pat Metheny. Io l'ho visto suonare in un club piccolissimo a Roma nei primi anni Ottanta, entrò in un club brasiliano chiamato Manuia tanti anni fa, noi eravamo lì presenti, e ci chiese di partecipare alla jam session con Roberto Gatto e gli altri, e prese in mano questa chitarra Stratocaster che credo gli fu prestata, se non erro, da Michele Ascolese, e il suono era proprio quello di Pat Metheny. Ebbene, questi musicisti il suono ce l'hanno fra le dita, così come quello di John Scofield, che è tornato con un album bellissimo. Tromba, raccontaci qualcosa. Sì, si chiama Country for Old Men. Praticamente John Scofield recupera quella che è la sonorità del country, un po' perché appunto ha raggiunto un'età in cui vuole recuperare quello che è la base fondamentale alla fine della musica americana. Ma anche perché è un uomo di campagna. Sì, anche per quello. È un uomo di campagna, quindi dopo tanto jazz, funk, groove, R&B e tutto quello che ha fatto, ha detto fatemi suonare... Un po' di country e lo ha fatto bene. E per farlo chi ha chiamato? Ha chiamato Steve Swallow, Larry Goldings, che suona Lemmond in alcuni brani, pianoforte, tastiere, e Bill Stewart alla batteria. Hai capito? Sì. Che io faccio un disco di country e chiamo a questi ragazzacci. Meraviglioso disco che tra l'altro vincerà senz'altro dei premi. Ormai ogni botta un'attacca a John Scofield. Ha preso il Grammy Award l'anno scorso, esatto, con Joe Lovano. Secondo me lo prende anche quest'anno. Probabile. Se lo merita. Forse sicuramente nella categoria country. Allora, vogliamo fare una cosa. Da Mr. Fool di John Scofield direi di ascoltare un altro brano che a me è piaciuto tanto di questo album. Si intitola Faded Love. John Scofield al soundcheck della domenica di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Per gli amanti del new jazz, del funk, del suono contemporaneo direttamente da New York, però questa è la tromba giapponese di Takuya Kuroda con Actress dal nuovo album intitolato Zigzag. Lo posso dire, l'album è molto ben realizzato, musicisti molto bravi, suono proprio tipico di New York di oggi. Sì, super contemporaneo, assolutamente. Allora, sapete che stiamo per chiudere? Già. È già finito, quando c'è bella musica il tempo passa velocemente, Silvia. Questo è vero, però è veramente... Però chiudiamo in bellezza. Con chi? Chiudiamo in bellezza perché anticipiamo la pubblicazione che ci sarà fra qualche giorno, esattamente credo il 27 gennaio, esatto. No? Dovrebbe essere pubblicato in tutto il mondo per Non Such, un album da non perdere se amate la musica, i musicisti e strumenti fondamentali e classici come il pianoforte e il mandolino, anche se questo è il mandolino americano che è diverso dal mandolino napoletano. E se il mandolino americano è suonato da un virtuoso come Chris Thiele e il pianoforte è sotto le mani di Brad Mehldau, il disco non può non essere acquistato. Tra l'altro, un album live. Sì, infatti questo album, questo progetto nasce dal tour che hanno fatto insieme Chris Thiele e Brad Mehldau nel 2013, quindi da lì hanno iniziato a girare il mondo in tour, anche se avevano già lavorato insieme nel 2011. Il 2011 corrisponde alla prima volta proprio certificata in cui hanno suonato su uno stesso palco Chris Thiele e Brad Mehldau. Ecco, poi non dite che noi non vi informiamo, perché in questi giorni, fra ieri e oggi, abbiamo parlato molto del recupero delle sonorità country e bluegrass. Lo ha fatto John Scofield con il disco nuovo, ma lo fanno anche Brad Mehldau e Chris Thiele. Chris Thiele lavora con i Punch Brothers, quindi è abbastanza impregnato di queste sonorità, ma per Brad Mehldau credo che sia un'esperienza più unica che rara. E tra l'altro, in questo brano bellissimo intitolato Scarlet Town, Brad Mehldau se la canta pure, per un uomo triste come lui, ecco. Adesso perché è bravissimo, però è abbastanza cupo come da un punto di vista umorale. Basta guardare le copertine dei suoi dischi per ne vorrei parlare con le case discografiche di Brad Mehldau, per favore. Sono improvvisate le copertine. Fategli delle belle copertine. No, non ce la fanno. In tutti i dischi si mette un secondo fuori dall'ingresso dello studio, sì, in posa con i musicisti, e gli scattano queste fotografie dove lui è vestito sempre nello stesso modo. Secondo me la foto la fa il fono. Con dai. I direttamente. Jeans impatacato, scarpe da ginnastica. Lo voglio dire ai producer: comprategliela voi una camicetta, una scarpa, una Duilio, mettetelo, fategli fare una pettinata. Ma no, tu adesso lo vuoi etichettare, Brad Mehldau è inetichettabile. Senti, è il mio musicista preferito da anni, io lo adoro, però sinceramente, però diamo una mano a Brad Mehldau. Mi capita l'occasione di incontrarlo, una camicia gliela regalo, guarda, perché non è possibile vederlo in maglietta sul palco dietro a allo Stanway o al Fazioli, cose bellissime, vabbè. Io mi propongo come personal shopper per Brad Mehldau. Bravo, anch'io. Andiamo insieme, che ne so, a Via del Corso a fargli i regali. Allora, Chris Thiele e Brad Mehldau chiudono il soundcheck. Ve lo ricordo, il 27 gennaio esce questo album pazzesco che ha un titolo eccezionale. Quale? Chris Thiele e Brad Mehldau. Ecco, non si può sbagliare. Scarlet Town a tutti voi. Buona domenica, buona settimana da Giorgio Telesforo, Tromba e La Barba. Ci risentiamo sabato prossimo qui su Radio 24. Ma Francesco Tromba sarà felice di ricordarvi che mercoledì alle 21:15 su Rai 5 ci siamo noi con Variazioni su tema. Ci siamo noi, ci sei tu, dai.